Vuoto Antonio, vuoto Antonio, vuoto Antonio, italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a Vota Antonio, la trasmissione nella quale ogni settimana cerchiamo di parlarvi e di raccontarvi come la rete cambia la politica e come voi potete cambiare la politica con la rete. Naturalmente la puntata di questa settimana è una puntata molto particolare perché, come sapete, da ieri a mezzanotte siamo in silenzio elettorale e quindi di politica italiana non parleremo, parleremo di altro, ci occuperemo di Stati Uniti e non solo di Stati Uniti, andremo in Germania. In questa puntata speciale vi faremo riascoltare anche alcune delle cose, soprattutto dal lato estero, che abbiamo fatto in questi mesi e vi vogliamo riproporre anche un'intervista, in realtà andata in onda la settimana scorsa, ma secondo noi vale la pena ribadirla perché sono cose importanti, che ci racconta di come una città può cambiare il suo rapporto con i cittadini tramite la rete. In apertura di trasmissione però, insomma, fatemi anche ricordare, anche da questi microfoni dei quali tanto ci siamo occupati, della campagna elettorale su internet, come si vota domani e lunedì. 47 milioni di italiani chiamati al voto, insomma, ripetita Juvent, 47 milioni di italiani chiamati al voto per politiche regionali, le regionali in Lazio, Lombardia e Molise. Si vota domani, domenica, dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15, negli stessi orari, oltre che votare per il rinnovo di Senato e Camera, si voterà appunto anche per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale di Lombardia, Lazio e Molise. Lo scrutinio avrà inizio lunedì 25 febbraio al termine delle operazioni di voto e poi martedì 26 a partire dalle 14 invece ci saranno gli scrutini per le regionali. Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Eccoci di nuovo, cari ascoltatori. Prima della pausa vi avevamo accennato che avremmo parlato di Stati Uniti e ci saremmo occupati di una campagna avvenuta principalmente o con molta energia sui social media. Ed è una campagna che è avvenuta in contemporanea con le elezioni presidenziali americane. Come sapete, si è votato per le presidenziali americane e insieme si è votato in una serie di stati per alcuni referendum. Questa campagna era dedicata ai matrimoni omosessuali, al riconoscimento dei matrimoni omosessuali. C'erano dei referendum in merito in quattro stati. In tre casi, alla fine, dopo questa campagna, e non solo naturalmente perché non è stata solo una campagna digitale, ma è stata una campagna complessiva, in tre casi è arrivato il via libera, mentre in un caso, quello del Minnesota, è stato fatto un passo avanti da questo lato, insomma, per chi lo ritiene un passo avanti naturalmente, abolendo l'emendamento costituzionale che definiva il matrimonio come unione solo fra un uomo e una donna. Ne abbiamo parlato con l'ideatore di questa campagna social che si chiamava The Four, i quattro, si riferiva appunto ai quattro stati, che è stato ospite alla Social Media Week di Milano questa settimana. E si tratta di Ryan Davis, che tra l'altro lavora per la Blue State Digital, azienda della quale in parte ci è capitato di parlare o alla quale ci è capitato di accennare nei mesi scorsi nel corso di questa trasmissione, ed è quella che ha seguito da vicino la campagna elettorale dal punto di vista digitale di Obama, quindi, come dire, gente che se ne intende. Abbiamo chiesto innanzitutto a Ryan di spiegarci che cosa fosse la campagna The Four, in cosa consistesse. Sure. So The Four was a Ci dice Ryan che The Four è stata una campagna digitale per far passare le leggi sull'eguaglianza del matrimonio in quattro stati dove appunto si svolgevano i referendum: Maryland, Maine, Minnesota e Washington. Storicamente, spiega, questo tipo di competizioni le abbiamo perse, quindi erano particolarmente importanti. La strategia è stata di distribuire un piccolo contenuto ogni giorno nei giorni che hanno preceduto il voto perché tutti potessero partecipare. Social media, quindi, particolarmente utili, particolarmente efficaci, ed è questo il tema su cui vogliamo centrare e sul quale torneremo più avanti, per l'attivismo digitale. Assolutamente, spiega Ryan, i social media sono agnostici rispetto al messaggio che si sostiene, funzionano per i buoni e per i cattivi, ma amplificano e accelerano il cambiamento. Lo abbiamo visto con Occupy Wall Street e anche con l'elezione di Obama. Torneremo più avanti su Occupy Wall Street. Nel vostro caso abbiamo chiesto, pensi che i social abbiano giocato un grande ruolo nei risultati dei referendum? Penso, ci spiega ancora, che abbiamo raggiunto milioni e milioni di giovani negli stati chiave ed è quello che volevamo fare. È molto difficile capire quanti voti abbiamo generato. Abbiamo incrementato la raccolta fondi, abbiamo spinto la gente a telefonare, a bussare alle porte, infine ad uscire per andare a votare. La vittoria va all'organizzazione, siamo fieri di averne fatto parte. E qua quindi parliamo anche evidentemente delle presidenziali. È molto difficile però misurare l'impatto effettivo dei social. Si sta migliorando, ci spiega ancora Ryan Davis, è un mix di verifica di opinioni online e di tracciabilità online. Credo, aggiunge, che entro le prossime elezioni sapremo qualcosa di più sul ruolo che effettivamente hanno questi mezzi. Ma insomma, hanno appena 8 anni, stiamo sviluppando la cosa il più velocemente possibile. In queste elezioni presidenziali si è parlato molto più che di social, di big data, ossia queste grandi quantità di dati che vengono poi utilizzate appunto per cercare di raggiungere la maggior quantità di elettori possibili. Nel voto del 2008 invece si parlò quasi solo di social media. Sono già uno strumento vecchio? I social media creano i big data, ci dice Ryan Davis. Io lavoro con clients che inseriscono informazioni da Twitter, Facebook, Tumblr. Quando parliamo di big data parliamo di dati che arrivano da molte fonti diverse e penso che i social media siano una delle vie migliori per comprendere l'opinione delle persone e continueranno a migliorare via via che la gente li userà in numero sempre maggiore. Gli utenti Facebook sono 1 miliardo, erano 100 milioni nel 2008. Abbiamo sentito con Ryan Davis che si parlava di attivismo digitale e in questa puntata, che vi ricordiamo ancora una volta, è in silenzio elettorale, quindi non è che siamo pazzi, non è che non abbiamo accennato, anche se a volte spesso di estero ci siamo occupati, non abbiamo accennato di politica italiana perché, insomma, per chissà quale motivo, semplicemente siamo in silenzio elettorale e non se ne può parlare. Quindi restiamo all'estero e parliamo di un movimento che è nato anche partendo dalla rete ed è il movimento Occupy Wall Street, del quale molto si è parlato. Adesso, se vogliamo, sceso in sordina per molti aspetti, anche se alcune istanze probabilmente sono state raccolte dalla politica, insomma, dai decisori politici. Ne parliamo con Claudia Vago. Buongiorno Claudia. Buongiorno. Che è una blogger e non solo, insomma, ha fatto anche un bel esperimento, è andata a seguire il movimento Occupy Wall Street, di fatto facendosi finanziare dagli utenti della rete, Claudia, no? È così più o meno? Esatto. Ho fatto quello che si chiama un crowdfunding, quindi ho chiesto alle persone che mi seguono di finanziarmi questo progetto. Sei stata là e com'è andata? Raccontaci qualcosa, soprattutto per questo aspetto che più a noi interessa, che è il rapporto con la rete. Beh, insomma, Occupy Wall Street è un movimento che nasce in rete, il nome stesso nasce in forma di hashtag lanciato da un post su un blog, su un sito internet, insomma, di Adbusters, e nasce quindi per essere raccontato in rete. Poi è chiaro che non è bastata la rete, tant'è vero che nel mio lavoro di ricerca storica, insomma, su questo movimento, ho messo insieme il racconto fatto attraverso i social media delle riunioni preparatorie di quel famoso 17 settembre 2011, ed erano riunioni fisiche in cui le persone si incontravano in piazze di New York a centinaia e discutevano di cosa fare il giorno che Abbasters aveva deciso doveva essere l'inizio di Occupy Wall Street. Per cui attivismo digitale in realtà non è una cosa separata dall'attivismo. L'attivismo digitale è un modo per essere attivisti ed è uno strumento, insomma, come dire, con questi strumenti che abbiamo a disposizione oggi, social network eccetera, si è molto democratizzata la possibilità di fare attivismo, perché chiunque con un accesso a internet e un computer può organizzare, lanciare messaggi, coinvolgere persone. Ed è quello che è successo, insomma. Claudia, secondo te che cosa resta oggi di quel movimento che noi abbiamo celebrato e raccontato, al di là dei contenuti, dico, esattamente come abbiamo fatto forse erroneamente con le rivoluzioni, con la primavera araba, partendo proprio da questo fatto, celebrando questa grande novità dell'utilizzo della rete come sistema di organizzazione, insomma, come metodo di azione, metodo per l'organizzazione. Ecco, che cosa resta oggi secondo te di quel movimento? Beh, l'uso della rete rimane, Occupy Wall Street è ancora molto forte nella comunicazione online, e sono delle vere e proprie macchine da guerra, nel senso che ogni volta che succede qualcosa, una qualche iniziativa del movimento, c'è una parte di loro che lavora praticamente esclusivamente al come comunicare all'esterno quello che succederà. E io sono abbastanza scettica sull'idea che i social media, la rete in generale, faccia le rivoluzioni. Sono però indubbiamente strumenti che aiutano ad organizzarsi, che sono a disposizione di chiunque, e credo che una qualche importanza comunque nei vari movimenti l'abbiano avuta. E l'hanno tuttora, cioè, per dire, Occupy Wall Street ne sentiamo parlare molto meno perché non ci sono più le piazze occupate e perché sono stati sgomberati ovunque, e quindi il movimento ha preso un'altra forma, però continua ad essere molto attivo e vivace. Per esempio sul tema del debito, che per gli Stati Uniti è principalmente un problema di debito privato, insomma, Occupy Wall Street ha messo in piedi una campagna molto interessante che fa un largo uso dei social media. E quindi l'attività continua alla grande, insomma. Secondo te quanto la parte digitale di questo attivismo, visto che, come ci dicevi, no, sono usciti dalle piazze e questo ce l'abbiamo di fronte agli occhi, non sono più nelle piazze, non le stanno più occupando e però in rete restano, quanto riesce ad influire e ad avere forza sulla politica, sui decisori finali alla fin fine, insomma, specie penso in particolare agli Stati Uniti, no? Dove naturalmente la stessa presidenza attuale è permeata da una cultura digitale che in Italia fatichiamo ancora a vedere. In realtà l'influenza c'è, perché questi strumenti tendono a come dire, eliminare tutti i livelli, tutte le separazioni fra i cittadini e i decisori. È più facile avviare una conversazione diretta con chi prende le decisioni, e chi prende le decisioni ha più facilmente il polso della situazione, di quello che le persone vogliono, chiedono, pensano. Per cui io credo che una qualche forma di importanza social network e la rete in generale le abbiano. E in questi giorni è stato in giro per l'Italia il responsabile dei social media del comune di Chicago, che ha raccontato esperienze meravigliose. Sì, tra l'altro ti dico, l'abbiamo avuto anche ospite in trasmissione la settimana scorsa, proprio per farci raccontare come funziona. Ecco, quello secondo me è un esempio straordinario, un esempio eccellente di un uso del digitale che consente anche di migliorare il governo di una città. Quanto sta passando questa cultura, secondo te? Da noi lentamente, però piano piano ci sono esperienze che cominciano a farsi avanti anche in Italia e prima o poi ci arriveremo, nel senso che bisognerà anche arrendersi all'evidenza, anche e soprattutto perché poi sono i cittadini che ne fanno quell'uso e quindi a un certo punto le istituzioni dovranno in qualche modo adattarsi e accettare. Io penso all'uso che è stato fatto per esempio in un caso di emergenza, d'accordo, però per il terremoto in Emilia, l'uso sia nell'emergenza appunto per segnalare necessità e quanto stava succedendo, ma anche per tutta la ricostruzione dopo. Penso anche a progetti come quello di Riccardo Luna, Open Ricostruzione, quindi usare la rete per aumentare la trasparenza su quello che è, su come vengono spesi i soldi per la ricostruzione dell'Emilia, eccetera. E sono necessità che nascono dal basso e le istituzioni dovranno a un certo punto farci i conti, non potranno ignorare per sempre, insomma. Grazie a Claudia Vago, la trovate su Twitter e Tigella, ma se cercate Claudia Vago su Google, io adesso è inutile che sto qua a darvi tutti, no, tutti gli indirizzi internet, insomma, la trovate ovunque. Grazie Claudia, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. E bentornati cari ascoltatori in questa seconda mezz'ora di Voto Antonio, parte finale di Voto Antonio se volete. Come avete sentito nella mezz'ora precedente, questa settimana non c'è stato il punto di Stefano Folli, ve lo ricordo ancora. Oggi è giornata di silenzio elettorale che è scattato dalla mezzanotte e che durerà fino alla chiusura delle urne, ossia lunedì alle 15. A partire dalle 15 poi, vale la pena ricordarvelo sempre, partiranno gli speciali di Radio 24 dedicati alle elezioni. Praticamente andremo avanti quasi ininterrottamente nella mattinata di martedì. Naturalmente troverete anche me, oltre che il nostro Alessandro Milan. Quindi non parliamo di partiti italiani, non parliamo di elezioni italiane e però vogliamo ritornare con anche qualche pezzo del nostro archivio, di quello che abbiamo raccolto negli ultimi mesi, su un tema che in parte è entrato nel dibattito, ossia il tema del voto online, o meglio della decisione online, di una qualche forma di democrazia diretta. Parliamo quindi di liquid feedback. Liquid feedback che cos'è? È praticamente una sorta di social network, così possiamo chiamarlo, una specie di sistema piuttosto evoluto per accedere al quale servono delle credenziali precise, cioè bisogna dimostrare di essere se stessi con nome e cognome, non come a volte si può fare in rete, perché a volte in rete si può ricorrere all'anonimato. Ebbene, Liquid Feedback è un sistema che permette di votare. In sostanza, uno può creare una proposta di legge o qualcosa di questo genere, una proposta di legge a livello regionale, a livello nazionale, insomma un po' a tutti i livelli, e poi ci si vota sopra con un sistema di deleghe, che prevede che se tu ritieni che una persona abbia una maggiore competenza rispetto a te su determinati temi, puoi delegare questa persona a votare su quegli specifici temi. È un sistema che sta facendo in parte breccia anche in Italia, è una cosa che vi abbiamo raccontato. Io personalmente, tra l'altro, ho avuto l'opportunità di testarlo, è un qualcosa che è stato sperimentato da Servizio Pubblico, che è l'associazione che fa riferimento, come saprete, a Michele Santoro. E però questa cosa nasce da lontano, meglio, non lontanissimo in realtà, Dobbiamo solamente andare in Germania. È un software che nasce dai pirati tedeschi, dal partito dei pirati tedeschi, che si apprestano tra l'altro a presentarsi nelle elezioni in Germania in ottobre, e che viene utilizzato in realtà più che appunto per le decisioni legislative, per la vita interna del partito, anche se qualche esperimento anche a livello locale, qualche amministrazione locale in Germania lo sta facendo. Di questo avevamo parlato un paio di mesi fa con Ingo Bormuth, che è del partito pirata, sta a Berlino ed è il coordinatore di tutto il progetto Liquid Feedback. I pirati tedeschi, il partito pirata tedesco non è nel Parlamento tedesco, ma è nel Parlamento di Berlino, della città di Berlino. Sentiamo dunque che cosa ci ha raccontato Bormuth. È un po' come un social network. La gente si registra, può proporre, discutere, votare. Mettiamo che io abbia un'idea e la inserisca nel sistema. Come primo atto, la gente deve votare se sia interessante oppure no, se valga la pena essere discussa, altrimenti viene lasciata da parte. Il primo step, dunque, è che almeno il 10% delle persone dica che la proposta concerne un argomento importante. Una volta ottenuto il 10%, le persone possono commentare la proposta, dare suggerimenti o anche idee alternative. Dopo 2 settimane questo processo viene fermato e c'è il voto. Sicuramente vi presenterete alle elezioni politiche del 2013, si vota anche da voi in Germania. Il programma lo state scrivendo anche con Liquid Feedback? Il punto è proprio questo. Al momento stiamo preparando il programma. È un processo lungo e faticoso. Ci incontriamo a congresso 2 volte all'anno e tutti i pirati tedeschi possono partecipare. Viene presentata una proposta, viene discussa e tutti i presenti possono votarla. Il problema è che così il sistema non è molto efficiente. Così chiediamo alle persone di mettere progetti e discussioni in Liquid Feedback, in maniera da avere al congresso delle proposte che sono state votate da alcune centinaia o migliaia di persone. Anche perché all'ultimo congresso c'erano 800 proposte e siamo riusciti a discuterne 40 o 50. E poi non tutti riescono a partecipare ai congressi. Dunque, con Liquid Feedback, l'obiettivo è aumentare l'efficienza, portando al congresso proposte di qualità e sulle quali si è già votato. Ma la decisione finale spetta comunque al congresso, mai al sistema online, almeno per il momento. Un tema interessante e che può diventare centrale. Una volta redatto il programma con Liquid Feedback, il rapporto con chi poi viene eletto in Parlamento, come funziona? La cosa importante è che le proposte che ne emergono non siano vincolanti per i politici. In Germania gli eletti non hanno vincolo di mandato e quando sono in Parlamento sono liberi di decidere cosa è giusto e cosa non lo è. La legge è questa e non vogliamo cambiarla, perché i politici hanno le loro idee, la loro morale e naturalmente si devono basare su questo. Ai nostri eletti chiediamo di guardare nel sistema e se prendono decisioni che sono contrarie a quello che si è deciso con questo sistema, di spiegare accuratamente perché l'hanno fatto. Probabilmente se un eletto lo fa troppo di frequente, presumibilmente non verrà più votato. Ma non c'è ragione di far andare in Parlamento gente che vota solamente quello che vogliamo. Sono politici, sono persone, sono umani e quindi votano quello che vogliono. Insomma, idee che aprono prospettive interessanti e nemmeno troppo lontane se pensate che in Islanda, è una storia nota, l'avrete letta, c'è stata una bozza di Costituzione che è stata redatta tramite le consultazioni in rete e poi approvata dal 66,3% degli elettori. Una carta costituzionale nata in seguito alla terribile... un'idea nata anche in seguito alla terribile crisi economica finanziaria che ha colpito l'isola, e però quest'idea di fare la Costituzione e di redigere una nuova Costituzione via internet evidentemente è servita anche a riavvicinare i cittadini alla politica, perché la rete alla fine serve, o meglio, può servire anche a questo. Ci ritroviamo subito dopo la viabilità e vi vogliamo in questo caso riproporre un'intervista che forse avrete sentito di recente, ma che secondo me vale proprio la pena di riascoltare, perché anche qua continuiamo a parlare del modo nel quale la politica può riavvicinarsi ai cittadini, in questo caso le istituzioni, come le istituzioni possono riavvicinarsi ai cittadini tramite internet. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori. Adesso ritorniamo con un'intervista che avrete sentito di recente, perché l'abbiamo realizzata anche questa in occasione della Social Media Week a Milano. Ritorneremo con questa intervista su un tema che mi sta particolarmente a cuore e che, se vogliamo, è anche uno dei punti centrali di questa trasmissione, ossia il rapporto tra le istituzioni e i cittadini. Si compone questo rapporto di tantissime cose, il rapporto tra istituzioni e cittadini naturalmente tramite la rete, si compone di tantissime cose. Vi abbiamo raccontato in questa trasmissione, se andate nel nostro archivio, insomma se andate tramite la ricerca sul nostro sito internet, troverete le informazioni dedicate. Vi abbiamo parlato della battaglia italiana per il cosiddetto FOIA, il Freedom of Information Act, ossia una legge, la richiesta di una legge che consenta ai cittadini l'accesso agli atti amministrativi, altro punto di trasparenza importante che non smetteremo mai di sostenere. E però ci sono altri modi anche da parte degli enti locali per essere più vicini ai cittadini, per dare trasparenza, per dare informazione. E questi modi di essere più vicini ai cittadini fanno anche sì che alla fine lo stesso ente, chi propone questi nuovi modelli, ne benefici in sostanza, abbia una conoscenza maggiore del territorio, dei propri cittadini e delle loro esigenze, e in questo modo riesca a tarare meglio i propri interventi. Quindi è un reciproco beneficio, perché i cittadini si riavvicinano alla politica, hanno un luogo dove esprimere il loro scontento o le loro opinioni, e dall'altra parte il comune, la provincia, la regione, lo stesso Stato hanno la possibilità di capire che cosa i cittadini effettivamente pensano e magari, perché no, anche cavarne delle idee interessanti di politica vera e propria, di attuazione politica. Dunque, su questi temi avevamo intervistato Kevin Hosworth, che è il social media director della città di Chicago e che si occupa esattamente di queste cose. E devo dirvi che certi esempi, insomma, ci fanno mettere le mani nei capelli. Sentiamo. Una piccola premessa. Rahm Emanuel è stato eletto nel maggio 2011, quindi quasi 2 anni fa. Prima era il capo dello staff di Obama e viveva a Washington. Quando è stato eletto, ha preso l'impegno di spingere sull'open government, migliorare la trasparenza, rafforzare il rapporto con il pubblico. Una delle cose che ha fatto è di creare 3 posizioni che prima non c'erano. Direttore del settore dati, direttore della tecnologia, direttore dei social media, tutti e 3 impegnati a creare un forte dialogo con i cittadini lungo le 3 linee direttrici che erano apertura, trasparenza, rapporto con la gente. Questi sono i principi che ci guidano nel nostro uso dei social media. Ok, chiarissimo questo, chiarissima la premessa, ma qual è il tuo lavoro? Io e il mio team lavoriamo per essere sicuri che i cittadini abbiano il più ampio accesso possibile alle istituzioni. Ci sono conversazioni quotidiane e che vanno avanti tutto il giorno su come Chicago possa funzionare bene e come farne un posto dove vivere meglio. È importante che il governo della città partecipi a questa conversazione. Noi ci assicuriamo che quello che avviene nella Town Hall sia comunicato all'esterno e lo facciamo con i social media. Ma più importante, li usiamo per avere un feedback, per ascoltare cosa ci dicono le persone. Ascoltare. Ascoltare è assolutamente importante. Il pubblico ha una voce e le istituzioni la devono ascoltare. Listening, yes. Listening is absolutely important that the public has a voice. And governments need to hear that voice and be engaged in the conversation. Kevin, ci puoi fare qualche esempio pratico di quello che fate quotidianamente, di quello che avete fatto, di qualche progetto che avete portato a termine? Sure. So, let's talk about the first budget. Siamo entrati in carica a maggio e in novembre c'è stato da varare il primo budget. Ognuno a Chicago ha un'idea su come risparmiare soldi e su come il governo della città possa farlo. Così abbiamo creato un sistema per raccogliere le idee dei cittadini, un sito di crowdsourcing che ci mostrava le idee e quali fossero le più popolari, perché si poteva anche votare, mentre gli impiegati del comune sono stati coinvolti nel rispondere ai cittadini, dando loro un feedback sulle idee stesse. Abbiamo creato una conversazione online su come la città potesse gestire le sue risorse finanziarie. Lo stesso sindaco poi ha partecipato ad una sessione di video chat in diretta su Facebook, dove ha risposto alle principali domande arrivate dal pubblico. E abbiamo passato un'ora in uno studio radiofonico con due speaker che giravano al sindaco le domande della gente, che nel frattempo poteva twittarle o postarle su Facebook. Una buona strada per raccogliere le idee, dare un feedback e capire come queste idee possano cambiare la città. Queste conversazioni avvenivano ovunque. Quello che abbiamo fatto è creare una community online dedicata nella quale noi siamo stati solo dei partecipanti. E qualche altro esempio? A Chicago abbiamo uno strumento, il 311. Se sei un cittadino e vedi che c'è un lampione rotto nella tua strada o spazzatura in un parco, puoi telefonare al 311 e segnalare il problema. Ma sappiamo che se una persona vede il problema, può darsi che non telefoni. Potrebbe decidere di mandare un tweet segnalandolo o solo lamentarsene con i vicini. Perché la città funzioni, però, è importante che noi disponiamo del maggior numero di informazioni possibili. Così abbiamo creato un programma che si chiama Open 311, mettendo a disposizione un'interfaccia di programmazione. Qualunque sviluppatore può mettere a punto un'app per gli smartphone o un'applicazione web che raccoglie le segnalazioni e le inserisce direttamente nel nostro database. Per esempio, tu, come cittadino di Chicago, potresti creare un'applicazione che ti consente di fare una foto del problema che hai riscontrato e mandarla direttamente all'amministrazione. Abbiamo aperto la piattaforma al coinvolgimento pubblico. Puoi usare SMS, foto. Affluisce tutto nel database del 311. E quel database lo abbiamo aperto, così che chiunque possa vedere tutti i problemi segnalati da chiunque altro. In città avvengono conversazioni costanti sui problemi e noi abbiamo creato uno spazio grazie al quale il governo della città può vedere meglio questi problemi e agire di conseguenza. Now we've created a space where we can actually help better structure the government to solve those issues. So it goes beyond conversation and actually takes it to action. So che forse la domanda non va fatta esattamente a te, ma la cosa come effetto collaterale fa sì che si crei anche maggiore consenso intorno all'amministrazione? You know, I think what you're finding is people want to be heard. Il punto è che la gente vuole essere ascoltata. Possono essere d'accordo con noi o non essere d'accordo. La cosa che credo sia importante è che il pubblico sia informato. L'abbiamo detto. La conversazione va avanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La mia idea è che se noi vogliamo stare in questa conversazione, voglio che il pubblico sia il più informato ed educato possibile. Noi facciamo il possibile perché questo avvenga e loro useranno queste informazioni per decidere. And that we're listening and that we're engaged and they can use that information to make their own decisions, I think. Ma c'è un problema di risorse, però, insomma, per tenere in piedi queste conversazioni che durano appunto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, insomma, per starci dentro anche solo come partecipanti, c'è bisogno di risorse, risorse umane che alla fine sono anche risorse economiche perché ci devi spendere sopra. You know, I think that what you're seeing though is that there are people that already exist in cities. Ci sono persone che lavorano già nelle città che hanno grande capacità di relazione con i cittadini. Due settimane fa c'è stata un'allerta per l'influenza. C'è un medico, una donna, che lavora per il Dipartimento per la Salute Pubblica di Chicago ed è molto brava a rispondere ai cittadini su come comportarsi durante l'inverno. Abbiamo organizzato una chat su Twitter nella quale abbiamo consentito a chiunque di rivolgere le domande. Il punto è che ci sono già degli esperti e sono bravi a risolvere i problemi della gente. Noi gli diamo gli strumenti tecnologici. Quella dottoressa rispondeva già alle domande di persona, al telefono o via mail. Noi abbiamo solo aggiunto Facebook e Twitter. L'idea è di trovare le vie tramite le quali già coinvolgi i cittadini e aggiungerci i social media. E chiudiamo così questa puntata di Voto Antonio con l'ascolto di questa intervista, una puntata che vi ricordo ancora una volta è andata in onda in silenzio elettorale e quindi vi prometto che tutte le analisi post voto sulla rete, sul ruolo che ha avuto la rete, se ce l'ha avuto davvero, le faremo nella puntata di sabato prossimo, quindi mi raccomando, ascoltateci. Vi ricordo, come sempre, a questo punto i nostri contatti: vota Antonio R24 è l'account Twitter, oppure potete anche usare il mio, Simone Spezia. Troverete anche questa puntata naturalmente sul nostro sito www.radio24.it. Come sempre, andate a visitarlo, tra l'altro, perché l'abbiamo appena rinnovato, ci sembra di aver fatto un ottimo lavoro e lo stiamo aggiornando quasi costantemente, un po' meno nel fine settimana, ma insomma ci siamo sopra. Non mi resta che ricordarvi anche i nostri speciali per le elezioni, visto che abbiamo detto che siamo in silenzio elettorale. Partiremo dalle 15 di lunedì, quando chiudono le urne, e andremo avanti quasi ininterrottamente fino a tutto martedì. Io vi saluto, ci sentiamo lunedì mattina con 9 in punto. Italiani!